Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi da Nicoletta. E da Deborah, buongiorno. È difficile dare un buongiorno. Direi che è abbastanza complicato stamattina. Siamo di nuovo qui, purtroppo a commentare un evento tragico dopo l'incidente ferroviario in Puglia. Ci confrontiamo con un altro grave episodio, 84 morti nella strage di Nizza. Due eventi che hanno una matrice diversa, ma che in entrambi i casi ci fanno sentire sgomenti, impotenti, che aumentano il nostro senso di incertezza e di paura, no? D'altronde ciascuno di noi si confronta quotidianamente con le proprie paure e cerca di mettere in atto strategie per affrontarle o per evitarle, ma adesso stiamo parlando di una paura che proviamo, che ci viene trasmessa ed è una paura condivisa, no? Con le persone che abbiamo intorno, una paura indubbiamente più grossa di noi, per la quale ci sembra di non avere strumenti abbastanza efficaci per superarla, affrontarla e metabolizzarla, così potremmo entrare in uno stato di agitazione che naturalmente ci porta a chiederci o a evitare le situazioni che ci paiono più rischiose. Sto leggendo i messaggi degli ascoltatori che hanno seguito il flusso di informazioni e alcuni di loro, ad esempio un'ascoltatrice scrive: dovrei andare nel ponente ma mi fermo, esatto, sto qui, abbiamo non sentito mi muovo. Anche il collegamento di Andrea Ferro poco fa, che proprio ci raccontava di leggere sulle facce delle persone che stanno varcando il confine a Ventimiglia appunto un po' di preoccupazione anche sulla scelta che hanno fatto comunque di mantenere la loro decisione di stamattina. Certo, di c'è chi lo evita e invece chi parte, insomma, comunque siamo psicologicamente più fragili e oggi insieme a voi e ai nostri esperti cercheremo di capire la differenza tra la paura che si attiva quando pensiamo di essere potenziali vittime di attentati terroristici e invece quella che nasce dal timore che ai nostri figli, a noi, ai nostri familiari possa succedere qualcosa, un incidente ad esempio, proprio come quello che è costato la vita alle persone che viaggiavano sul treno in Puglia. 800 24 0024 per parlare e intervenire con noi. Abbiamo in linea con noi il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht a Miami. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. E insieme al professor Perna abbiamo il professor Fabio Sbattella, psicologo, psicoterapeuta, insegna psicologia delle emozioni all'Università Cattolica di Milano, dove è responsabile dell'unità di ricerca di psicologia dell'emergenza e dell'assistenza umanitaria. Professor Sbattella, dopo la strage di Nizza torniamo a parlare di psicologia dell'emergenza e di paura di fronte ad un evento così traumatizzante, inspiegabile e per questo ancora più destabilizzante. Si scatena quella che viene definita emergenza psicologica. Insomma, possiamo definirla come quell'alterazione più o meno forte, più o meno evidente del nostro equilibrio psicoemotivo che è stato già scosso questa settimana dall'incidente ferroviario in Puglia. Due eventi diversi, lontani geograficamente, che hanno dei tratti comuni e dei tratti distintivi. Il tratto comune è quello che ci costringe a fare i conti con la paura della morte, con la nostra fragilità, con il timore che avvertiamo ogni qualvolta siamo vittime o pensiamo di poter essere potenziali vittime di una condizione che non possiamo controllare. Professore. Sì, esatto. Questi eventi aumentano la consapevolezza di ciascuno di noi della fragilità del corpo umano, ma anche, spero, aumenti la consapevolezza dell'importanza e della bellezza della vita. E questo è la riflessione importante che può fortemente aiutare a contrastare queste dinamiche mortifere, depressive, che in questo caso in maniera intenzionale i terroristi cercano di diffondere tra le persone. Ecco. La psicologia di emergenza, la condizione di emergenza è uno stato di allerta che impegna molte energie, ovviamente porta con sé dello stress e del disagio, tuttavia è una reazione che la mente ha per adattarsi al meglio nelle condizioni mutevoli della nostra vita. Ecco. Io vorrei chiedere, professore, ai nostri ascoltatori di aiutarci un po' a costruire la puntata, di fare con noi una riflessione, no? A voce alta. Ad esempio potremmo iniziare partendo a confrontarci, a raccontarci il nostro stato d'animo. Qual è stato il primo pensiero quando abbiamo avuto notizia del disastro ferroviario e qual è, a che cosa, a chi, a che cosa abbiamo pensato quando oggi abbiamo, stanotte abbiamo appreso la strage di Nizza. Ecco, forse questo può iniziare, no, a darci degli spunti di riflessione e di anche condividere questa sensazione che sì, di paura, di disagio, di impotenza, di indignazione, o forse ci stiamo abituando, perché vogliamo anche, no, sottolineare un po' questo aspetto. 800 24 00 24, perché professore, è logico che di fronte a grandi tragedie il sentimento che si prova, no, è comune, no? Ma possiamo notare delle differenze. Nel caso di una catastrofe naturale si può sempre dare la colpa della tragedia a una coincidenza sfortunata, no? L'errore umano si cerca di prevenire, ma un po' si mette in conto. L'attacco terroristico suona proprio come una strage degli innocenti, e questo necessariamente attiva delle dinamiche differenti. Non solo una strage degli innocenti, ma ci rende consapevoli che ci sono delle persone che sembrano come noi, che sono come noi per moltissimi aspetti, che sono cariche di un rancore, di una aggressività, di una follia veramente pazzesca. Questa qui diminuisce la fiducia tra le persone, aumenta la consapevolezza che la cattiveria esiste. Su questo bisogna fare i conti e bisogna anche fare alcune riflessioni. Nei primi due casi può esistere, c'era appunto la coincidenza o anche la superficialità, l'incuria, non sappiamo, nei sistemi complessi come quelli dei trasporti, però le aggressioni intenzionali aprono molto sgomento, perché ricordano questo aspetto di cattiveria proprio, che qui siamo sottoposti anche in maniera assolutamente ingiustificata. Allora, voglio leggervi intanto i messaggi che arrivano su WhatsApp, intanto che ci passano gli interventi dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Si scrive Laura da Como: più che spaventata sono arrabbiata, nello studio dove lavoro siamo tutti d'accordo sulla rabbia. Parlare a caldo di certe persone ti fa risultare razzista, quindi rimane la rabbia e la frustrazione di non poter parlare. Professor Perna, con lei ci spostiamo nella mente, no, di chi si trova coinvolto in una situazione di questo tipo. Abbiamo visto le immagini, abbiamo sentito il racconto delle testimonianze, no, di questo fiume di persone che scappavano, no, perché sentivano che, anche senza capire esattamente, no, che cosa stava succedendo alle loro spalle, un grande trauma. E vorrei anche che lei ci aiutasse ad entrare nella nostra testa, perché viviamo queste tragedie dai racconti dei media, dalle immagini che vengono trasmesse. Quali circuiti si attivano? Di tutto è sempre il cervello emotivo quello che viene colpito. Da quello che avete raccontato ci sono aspetti centrali in quelli che sono i meccanismi di difesa dai pericoli, cioè la paura da una parte e la rabbia dall'altra, sono i due grossi pilastri con cui noi ci difendiamo rispetto al pericolo esterno, per cui in questi momenti, a seconda delle circostanze, a seconda delle persone che vengono colpite, possono attivarsi proprio delle reazioni di paura e quindi di difesa molto forte, come di chiusura, e paura invece, risposta invece di rabbia. Il cervello generalmente anche un altro elemento importante, che è una memoria emotiva molto forte, mentre la memoria normale, quella per cui ci ricordiamo oggetti, fatti, situazioni, è presente ma spesso non è così forte. Quella emotiva è talmente forte per cui se viviamo un'esperienza molto forte o se abbiamo paura di qualcosa in maniera molto intensa, questa rimane in maniera indelebile presente lì e quindi rischia di condizionarci per anni e anni. Quindi questi momenti di paura generalizzate, questi eventi così catastrofici, sicuramente ci stanno condizionando a vivere un futuro in maniera un po' meno serena e un po' più pericoloso. Sono d'accordo anche il fatto che forse in questo momento è necessario aprire gli occhi e guardare anche gli aspetti positivi, proprio per evitare alla paura e alla rabbia di impadronirsi di noi. Ecco, vogliamo anche naturalmente chiedervi se in qualche modo, pensate di modificare i vostri programmi. Io parlerei di vacanze, di progetti, ma parlerei anche di modificazioni, di cambiamento nel nostro quotidiano, no? Io stamattina ho ripreso la metropolitana, certo. E una persona, Deborah, dice che io parlo con le pietre, attacco il bottone, e una signora mi diceva no, continuiamo, perché poteva, certo. È capitato a Nizza, potrebbe capitare nella metropolitana. Poi se ti blocchi in una città come Milano, dove potenzialmente sempre viene, come dire, evocata come città potenzialmente a rischio, nel mirino appunto anche di situazioni di questo tipo, allora siamo veramente... E nello stesso tempo, per rafforzare proprio questo pensiero, ci si dice, beh, tanto poi guarda, possono capitare anche delle tragedie, la fatalità, un treno, prendi un treno che hai sempre preso, esatto. Mille volte, chissà quanti pendolari si sono riconosciuti nella tragedia pugliese. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, torniamo insieme a voi, a Luca che ci ha chiamato da Rovigo, che sentiremo subito dopo, a tra poco. Cuore e denari. Allora, qualche aggiornamento intanto che sta arrivando da Parigi. Il presidente francese Hollande ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, il 16, il 17 e il 18 luglio, dopo la strage di Nizza. L'annuncio è stato dato proprio poco fa dal premier francese Manuel Valls, che ricordando che il terrorismo costituisce una minaccia che pesa e peserà ancora a lungo sulla Francia. Valls ha anche precisato che il progetto di legge per prorogare lo stato di emergenza di 3 mesi, che si sarebbe concluso proprio in questi giorni dopo i campionati europei di calcio, verrà esaminato dal Consiglio dei ministri martedì, per poi passare in Parlamento mercoledì e giovedì. Ma su questi aspetti naturalmente poi la redazione ci aggiornerà con qualche dettaglio in più. Poi cinicamente un'occhiata anche ai mercati finanziari. Mentre in apertura ci sembrava che ci fosse una seduta di assestamento senza pesi e ripercussioni particolari di questa tragedia sulla borsa, vedo adesso che invece la borsa francese perde più delle altre, meno 0,7% sul listino, e globalmente vedo ovviamente, come ci si aspetta sempre in questi casi, qualche tensione sui titoli delle compagnie aeree. Milano perde 0,5 punto, però insomma questo segno meno deriva anche da qualche giorno consecutivo di progresso, quindi prese di profitto sì, e poi un peso in più sulla Francia, dove il listino naturalmente ha un calo un po' più forte degli altri europei. Nicoletta. Allora, abbiamo in linea con noi Luca da Rovigo, per chi si fosse messo in contatto con noi solo ora. Stiamo così... non voglio dire neanche usare la parola commento, ma stiamo aprendo il nostro cuore, stiamo raccontandoci in diretta insieme ai nostri ascoltatori dopo la tragedia di Nizza, e quando è ancora caldo, no? È ancora molto presente nel nostro cuore il disastro ferroviario. È inevitabile che la vicinanza temporale di questi due eventi ci spinga a confrontarli, a metterli vicino, e infatti abbiamo chiesto a voi di raccontarci qual è stato il vostro primo pensiero quando avete avuto notizia del disastro ferroviario, invece a che cosa avete pensato quando avete appreso della strage di Nizza. Un'ascoltatrice, Wanda, via WhatsApp ci scrive: mi chiedo se sono stata più scioccata dal disastro ferroviario solo per il fatto che fossero italiani, o se sto sviluppando un nuovo sentimento di, e mi fa male dirlo, sottolinea, rassegnazione. Un altro ascoltatore ci scrive: forse non riusciamo più a indignarci, ma ne parliamo tra poco. Luca, intanto buongiorno da Rovigo, grazie per essere intervenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ci dica, io, Luca. Io pongo una riflessione, al di là della rabbia, il primo sentimento. Poi mi chiedo, perché questo genera ansia, paura, tutto il rapporto che può esserci col mondo dell'Islam. Io stesso devo andare in viaggio in Marocco, qualche preoccupazione sorge, al di là del fatto che oggi nessuno è sicuro da nessuna parte. Ma mi chiedo, siccome l'obiettivo dell'ISIS credo sia stato proprio colto, creare preoccupazione, creare paura, creare tutto questo stato di non siamo sicuri da nessuna parte, è giusto dare l'informazione dettagliata che facciamo? Siamo in una situazione veramente di grande crisi, anche di leggi speciali sulla sicurezza, così come lo è la Francia. Oggi io la butto lì come provocazione, sì. Avrei detto attentato in Francia, 84 morti, causa ISIS. Ho paura che questi fatti siano emulati, ho paura che utilizzando anche purtroppo non solo le bombe possono essere oggetto di strage, ma anche un semplice camion. Certo. E siccome ci sono tante cellule in giro, tanta gente con la testa devastata, potrebbe generare l'effetto emulazione. Questa è un po' la paura di Luca di Rovigo. La condividete? Parlatene con noi. Intanto vorrei sentire il parere dei nostri esperti. Intanto farei un saltino di nuovo con il professor Perna nella mente. L'emulazione, questo dettaglio nell'informazione, dice Luca, potrebbe, no, attivare, è lo stesso problema che si pone ogni volta che magari si racconta, si manifesta in una piccola comunità, penso ad una classe, un evento tragico, il suicidio di un ragazzo, allora poi tutti gli psicologi, l'equipe di psicologi e di psichiatri deve proprio contrastare questo rischio molto alto che è di emulazione. Professore, non so se il paragone può tenere, ma le dinamiche sono più o meno simili. Allora, è vero che molto spesso nel comportamento umano noi non agiamo perché non abbiamo il coraggio di agire. Quindi può capitare che nel momento in cui alcune persone abbiano una propensione a certi comportamenti che sono chiamati criminali, poi possono essere chiamati come vogliamo, ma di fatto sono criminali, e fin tanto che non c'è un ambiente favorevole, questi comportamenti rimangono un po' sotto controllo. Nel momento in cui si accorgono che è possibile, poi li mettono in atto. Quindi non è un concetto impossibile. È vero che l'emulazione possa davvero incitare, come dire, molte persone a fare delle azioni di questo genere, lo escluderei. Però è vero che rende possibile, cioè se è possibile fare una cosa del genere, vuol dire che se abbiamo alcune persone che sono da una parte, estremiste e d'altra parte squilibrate, non è escluso che possano poi muoversi. Quindi questa è una possibilità reale, anche se non la vedrei come un pericolo davvero grosso. Forse il vero pericolo è che esiste evidentemente una situazione, un piano, un qualche cosa dietro che è molto più strutturato, che non si basa semplicemente su suscitare alcune emozioni, ma probabilmente sul mettere in atto un progetto che è quello che sta poi creando tutti questi problemi. Allora, noi dobbiamo fermarci per dare giusto la linea? No, ancora no, no, ho ancora un minutino di tempo per un contributo del professor Sbattella, che poi ci deve lasciare. Professore. Sì, ecco, un commento. Una cosa che viene da dire è che ci sono tante psicologie dell'emergenza, non ce n'è una sola, sì, no? Ecco, a seconda un po' dei contesti, volevo, delle cause. Commentare questa cosa della responsabilità, l'ascoltatore ha posto molto importante, c'è una grossa responsabilità della comunicazione. In questo mondo iperconnesso, il problema spesso non è di censurare, ma di inondare la rete di comunicazioni costruttive, sane e contrastanti la propaganda. Indubbiamente c'è un modo di fare voyeurismo della morte, di fare enfasi del martirio, quant'altro, che va nettamente contrastato con delle informazioni chiare invece sul fatto che questi eventi accadono in maniera particolare, puntuale, ed è molto importante isolarli, mostrare come siano elementi di singole persone. Sono tante indubbiamente che singolarmente portano rancori, portano follia, ma indubbiamente sono azioni che si collocano nel tempo e nello spazio, e quindi sono in qualche modo identificabili e circoscrivibili. Questo, le narrazioni sono molto importanti, certo, nella comunicazione mediale, ecco, per orientare anche la gente e pare dargli un senso anche, certo, a quello che sta accadendo. Grazie professor Sbattella, noi rimaniamo insieme, GR e poi di nuovo a Cuore Denari. Cuore e Denari. Siamo tornati insieme, 800 24 00 24, commentiamo insieme gli attentati di Nizza, li mettiamo a confronto con lo stato d'animo che ancora proviamo, è ancora molto vivo per la tragedia ferroviaria, e abbiamo tanti nostri ascoltatori che intervengono per raccontarci la loro esperienza. Per Massimo da Imperia, Nicola da Caserta. Massimo, buongiorno, c'è sempre con noi il professor Perna, tra poco ci raggiungerà la dottoressa Emanuela Trinci, con cui vorremmo parlare anche di bambini, di adolescenti. Adesso i ragazzi partono, vanno a fare le vacanze, vacanze studio, vacanze con gli amici, spiccano il volo e nel loro zaino devono mettere sicuramente una dose di consapevolezza, di attenzione, ma questo non può sicuramente limitare, no, il loro desiderio assolutamente sano di esplorare. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Io, guardi, telefono da Imperia, ho 72 anni e mi sento molto vicino ai fatti che sono accaduti, anche perché mi dispiace molto, specialmente per i bambini che sono morti, appunto, perché io ovviamente adesso ho una figlia grande, però a Nizza ci sono andato un centinaio di volte, se non di più, e queste manifestazioni poi sono molto belle, interessanti, e per far partecipare anche i bambini, ecco, specialmente al carnevale di Nizza e via dicendo. Ora, questa situazione si è creata anche perché, le dico, io vorrei dare il mio parere, ma la ringraziamo. Cioè, a Nizza ci sono, come nelle grosse città, anche italiane ovviamente, non solo francesi. È una delle più italiane delle città francesi, Nizza. Eh sì, infatti, mi fa strano, io non vorrei, non si sente che ci siano stati coinvolti gli italiani, però perlomeno 84 morti sono tanti, di conseguenza io spero tanto che, ma o italiani o anche di altri stati, comunque sempre una gran... Sì, non è un discorso... Ecco, lei ha messo anche, ha sottolineato un aspetto che vorrei commentare con voi. Diciamo 84, sono tanti, sono pochi, cioè basta uno. Quando abbiamo fatto la puntata sulla donazione del sangue, relativa ieri alla tragedia del ferroviaria, un ascoltatore ci ha scritto: perché tutta questa emergenza, no, per così poche persone? Ma non si misura il dolore e l'impatto con i numeri, non è il numero dei feriti o il numero dei morti che misura la gravità della situazione, d'accordo Massimo? Ma poi uno le sente queste cose, può essere anche una persona che ne ha bisogno, come ne possono essere 100, comunque non si tratta di andare a analizzare quante persone sono mancate, il fatto che uno si sente di dare sangue perché in quel momento lì è, ma non solo in quel momento lì, bisognerebbe sempre essere pronti a dare alla società, al prossimo, solo che noi non siamo più abituati oggigiorno. Non abbiamo più la cultura del rispetto. Che è vero, viene da dire così Massimo, però in realtà abbiamo anche la grande solidarietà che si è mossa nella rete, una solidarietà che ha permesso, ad esempio, ne parlavamo con Deborah, ai genitori di ritrovare il bambino di 8 mesi, che la carrozzina, il passeggino si era disperso, e proprio tutti si sono attivati e è stato ritrovato il bambino. Ma non è solo questo, la solidarietà della rete ha permesso anche di dare delle comunicazioni, di dimostrare che la città era aperta, pronta ad accogliere le persone. Ecco, la solidarietà nasce dall'empatia, no? Dal riconoscersi nei panni degli altri. Io capisco che quella persona è in difficoltà, la sento come mia e le offro quello che io vorrei ricevere. Professor Perna, un'empatia e una solidarietà che necessariamente si attivano più le persone ci sono vicine e più le situazioni sono a noi familiari, come ci racconta il nostro ascoltatore, conosce Nizza, oppure le persone che hanno subito un impatto sicuramente importante della tragedia di Bari sono spesso i pendolari che sanno bene che cosa vuol dire, no? Frequentare una stessa tratta quotidianamente. Professore. Beh, sicuramente è vero che tanto più una situazione ci tocca, tanto più la viviamo, anche se non ci colpisce direttamente. Però mi sembra che siamo andati un po' oltre, perché gli eventi che stanno accadendo sono davvero eventi molto forti, molto violenti, sono eventi in cui probabilmente dopo ormai mesi e mesi, anni in cui stanno accadendo, sta montando quella rabbia che dice: possibile che non si possa far nulla, quindi accanto alla paura c'è anche un sentimento fortissimo di rabbia. Poi sulla solidarietà, e non c'è dubbio che è l'elemento centrale, io credo che In questo momento bisogna sentirsi cittadini del mondo e non semplicemente cittadini della propria casa. E in questo senso è soltanto la rete di collaborazione che poi potrà permettere di uscire da questo momento, perché se ognuno di noi giocherà la partita individuale, lasciando fuori dalla porta quelle che sono le altre persone, questo a mio avviso diventa veramente un punto un vero risultato di questi atti terroristici che stanno accadendo, quello di isolarci, di metterci paura, di farci giocare soltanto in difesa, quando in realtà siamo una forza di miliardi di persone che hanno una modalità di pensiero che non è analoga a quello di questi terroristi. Allora, intanto vorrei leggere ai nostri ascoltatori un aggiornamento, una notizia pubblicata da Asca News, anticipandovi che tra poco ci collegheremo anche di nuovo con la redazione per vedere appunto se questa notizia viene confermata o meno. Sarebbero almeno 3 gli italiani che risulterebbero dispersi. E diamo la notizia solamente perché pubblicamente i familiari di queste persone hanno lanciato degli appelli su Twitter, per cui risultano questi 3 italiani dispersi. Naturalmente speriamo che se sono dispersi siano feriti e quindi ricoverati presso qualche ospedale, quindi chiaramente poi la circolazione delle informazioni sulla presenza e i nomi delle persone è ancora più difficile, però c'è appunto questa notizia. Vi dicevo, le 3 persone sarebbero il 71enne Angelo D'Agostino e la moglie Gianna Muset, e l'appello su Twitter è stato lanciato dalla nuora di questa coppia, e poi ci sarebbe anche un terzo giovane che risulterebbe disperso, è Vittorio Di Pietro. Ma ribadisco, prendiamo ancora tutto con il condizionale, fra un po' ci ricollegheremo con appunto la redazione, con Maria Luisa Pezzali che ci raggiungerà per informarci meglio su tutto questo. E se qualcuno vuole mettersi in contatto con noi, 800 24 00 24, andiamo a Caserta con Nicola. Buongiorno Nicola. Buongiorno, guardi, io accomunerei le due tragiche vicende, sì, del treno e della di Nizza, poiché mi sembrano figlie della stessa, hanno la stessa matrice, lo stesso comune denominatore. È sempre l'economia e la mancata gestione e l'oculatezza che dovrebbe presiedere a queste cose. Ora, riferendomi all'articolo, dico spiego perché si dice che a un certo momento la strage l'incidente di Bari è dovuto all'errore umano, ma sì, prima dell'errore umano c'è ci sono delle mancate opere che devono essere fatte, ma che non sono state fatte perché per paura della camorra, delle tangenti e tutto il resto. Allora noi ci blocchiamo perché non vengono fatte le cose, lasciamo che si proceda in quel modo così pericoloso, no? Alla stessa maniera non ci curiamo di quest'altro aspetto, di questo aspetto del terrorismo, non trovando un dialogo e una forma di interazione intelligente fra le varie persone, fra un nord e un sud del mondo, dove effettivamente sono istanze diverse, e purtroppo il risultato è questo. Sono 2 stragi, 2 incidenti, 2 fenomeni che hanno secondo me lo stesso comune denominatore, e la soluzione è trovare finalmente una capacità di dialogo intorno all'umanità, intorno all'uomo, a pensare all'uomo come al nostro prossimo, come compagno di cordata che deve essere, certo, rispettato in tutto e per tutto. Non possiamo continuare a fare il braccio di ferro su determinate cose, certo, su chi perde, su determinati interessi economici. Grazie. Ora, Nicola. Grazie, andiamo a sentire. Grazie Nicola. Torneremo su questo aspetto, ma vorrei sentire anche Riccardo che ci chiama da Andria. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Grazie per l'opportunità che mi state dando. Niente, io volevo, al riguardo di ciò che è successo, pur non avendo familiari, siamo veramente come comunità sconvolta. Ci stanno un sacco di manifestazioni di solidarietà per le famiglie, per quello che è accaduto. Volevo fare un plauso a tutti i soccorritori, certo, all'ospedale che si è messo a disposizione, ai volontari, ai famigerati ultras che si sono prodigati nel portare bevande e tutto il resto. Molte volte vengono anche, diciamo, messi da parte, sai, come se fossero delle persone particolari, invece quindi sono prodigati anche loro. la comunità, la diocesi, tutti in sì, particolare. Abbiamo proprio, Riccardo, sottolineato la solidarietà della rete, naturalmente senza nulla togliere a tutti i volontari, a tutte le persone che si sono attivate con grande cuore. Una situazione simile immagino si sta registrando anche adesso a Nizza. Vorrei leggervi un messaggio. Di un ascoltatore che ci scrive: secondo me il messaggio che tutti dovremmo sempre far passare è che questi attacchi sono atti di persone vigliacche e codarde. È molto più facile distruggere che costruire, uccidere che andare d'accordo, perché per eliminare una persona ci vuole un attimo, andarci d'accordo anche se diversa da noi richiede tempo. Ma sento solo dire che sono fanatici, pazzi, religiosi all'estremo, ma mai li sento definire codardi e vigliacchi. Allora, una cosa volevo, professor Perna, condividere con lei e con i nostri ascoltatori, e, cioè che questi, gli attacchi terroristici si ripetono, restano eventi tragici, ma noi tendiamo a non percepirli più come eventi eccezionali, li mettiamo in conto, no? Questo in alcune aumenta il senso di incertezza e di paura, in altre invece genera una sorta di fatalismo, perché siamo tutti bersagli sensibili. Quindi tanto vale andare avanti e nel caso rifugiarsi nel pensiero che le tragedie capitano sempre agli altri, no? Facendo un parallelismo con quello che possiamo intendere come nostra salute, un po' la paura di malattie gravi, come ad esempio il tumore, pensiamo sempre, no, che siano gli altri, esatto, no, ad ammalarsi. Professore. È vero che la reazione a questi eventi dipende un po' anche da come siamo fatti noi, no? In generale possiamo dire che se un evento, anche così grave, si continua a ripetere, purtroppo o per fortuna la nostra mente umana è capace man mano di attenuare le risposte, quindi tende un po' ad abituarsi. Sì, no? È fisiologico, vero? È perché fisiologico, non possiamo continuare a rimanere sempre attivati. Se noi torniamo indietro nel tempo, quando c'era la guerra, no? La vita un po' continuava. Mia mamma mi racconta, andavamo, c'erano i bombardamenti, ma andavamo comunque a scuola. Ecco. Esattamente, questo è il lato positivo. Il lato pericoloso è che si abbassa un po' la difesa, no? Quindi per non vivere continuamente nel terrore e nell'angoscia, noi ci abituiamo agli eventi, però ci difendiamo un po' di meno. Ognuno di noi reagisce diversamente, c'è chi viene sensibilizzato da questo, quindi tutti questi episodi aumentano il livello di ansia e di paura. Quindi la gente inizia a dire: io ho paura di andare a Milano, ho paura di andare a Roma, ho paura di prendere i mezzi, ho paura di fare viaggi. E la frequenza di questi episodi aumenta la paura. Altri tendono semplicemente a skipparla, proprio una sorta di negazione. Quindi è un meccanismo di protezione anche quello. Sono tutti meccanismi di protezione diversi che si attivano. Ovviamente lo scopo finale è quello di farci vivere meglio, però talvolta possono essere pericolosi perché ci costringono, a fanno abbassare la guardia rispetto a quelli dei pericoli che sono reali. Perché purtroppo oggi queste cose accadono molto frequentemente e quindi la paura non è più una roba assurda, è una cosa che ha una giustificazione in fatti reali concreti. Ecco, è un messaggio, è un clima difficile in cui crescere i nostri figli, è anche un messaggio difficile da comunicare ai bambini e agli adolescenti. Buongiorno alla dottoressa Manuela Trinci, che è con noi, psicoterapeuta dell'età evolutiva, qui affidiamo e chiediamo di darci una mano un po' a gestire questa situazione, a trasferire queste informazioni, questo nostro disagio anche ai nostri bambini, ai nostri figli. Partono, ci sono le vacanze, comunque crescono, sono gli adulti di domani. Noi quando eravamo piccoli avevamo un altro clima, sì, indubbiamente, quindi non abbiamo no, modelli a cui ispirarci. Dottoressa. Sì, buongiorno intanto a tutti e grazie. È vero, se le si pensa per esempio che è frequente, sono due le cose frequenti, che i genitori rispetto per esempio all'abitudine ormai consolidata di mandare i ragazzini dalle medie in poi nel periodo estivo anche a Londra o addirittura negli Stati Uniti, no? Quindi ci sono stati veramente dei gruppi di genitori che hanno controllato quale fosse la compagnia aerea cercando di trovare quelle a minor rischio dal loro punto di vista, quindi questo è un'ansia forte dei genitori, a cui corrisponde un dato interessante, un'inchiesta fatta dall'Osservatorio Psicoanalitico Italiano sulle nuove paure dei bambini, e risulta apicale come posizione la paura del futuro, che è una paura nuova, e quindi questo ci dà un po' l'idea di quanto veniva detto sinora in trasmissione, proprio questa incertezza, questa fragilità rispetto al rischio, no? perché nella cultura liberista affrontare un rischio anche per i ragazzini voleva dire crescere, voleva dire impattarsi con la vita, mentre ora il tema grosso è che ci sentiamo a rischio, no? I ragazzi si sentono a rischio e quindi questo favorisce anche molti luoghi comuni rispetto alla vulnerabilità. Quindi non si fa più leva, diciamo, su quelle che sono le attrezzature umane per invece affrontare una situazione così, così complessa. I genitori, d'accanto loro, appunto, corrispondono con questa situazione di proteggere certe volte proprio a oltranza i propri figli, tipo creare una situazione, mi viene in mente un libro per bambini che dovrebbero leggerlo però i genitori, che si intitola Nicola Passaguai, che è la storia di un topolino che viene avvolto dalla mamma nella bambagia e con questa bambagia viene scambiato per una palla di neve, ora per un pezzo buono, per una papera da mangiarsi, fino a che Nicola Passaguai si libera dalla bambagia e torna a casa dicendo sono vivo, ecco. Quindi questo dà un po' un'idea dell'iniziazione dei ragazzi. Quindi bisogna stare attenti a non essere sopraffatti dalla paura. Mi trovo molto in sintonia con il professor Perla quando diceva appunto che bisogna sollecitare veramente nei giovani, nei bambini, nei ragazzi il senso della solidarietà, evitando la chiusura nel proprio orto, nel guardare solo a se stessi. Ecco, perché se è vero che i ragazzini rischiano di perdere delle sicurezze di base, perché un giorno ci si sveglia con la catastrofe di Bari, il giorno dopo ci si sveglia con Nizza, Parigi, eccetera, eccetera. Questo non significa non tener conto, e questo è un compito educativo grossissimo della famiglia e della scuola, aggiungerei, e delle varie istituzioni o dei vari luoghi dove i ragazzini frequentano. Non ci dimentichiamo che siamo tanti e che insieme possiamo lottare contro questo attacco feroce alla democrazia e all'intelligenza umana. Grazie dottoressa Trinci. Andrei a Giorgio, che ci chiama da Roma. Giorgio, benvenuto, buongiorno, grazie. Buongiorno, brevemente, a parte la considerazione ovviamente di panico, di ormai di raggelante mobilismo per cui nessuno è più sicuro e l'Occidente meno del Nord Africa ormai, volevo però considerare una cosa: ma come mai non si prendono provvedimenti rispetto ai familiari, ai beni di queste persone, di questi terroristi? In realtà secondo me si potrebbe disincentivare in qualche modo anche trovando una corresponsabilità morale, se non addirittura compiacimento nei familiari e nelle, per cui prevedere un esproprio, un'espulsione, cioè, delle quindi famiglie. lei sta già Giorgio ci sta dicendo lei che cosa farebbe per limitare, cioè una pena, un'azione per evitare questo rischio, no? Vita familiare, nell'educazione dei propri figli, ognuno di noi, ogni genitore, voglio dire, ha creato o concorre, diciamo, alla buona educazione dei propri figli, per cui voglio dire, credo che anche questo aspetto debba essere considerato e potrebbe essere un deterrente o un invito ai genitori a ben vegliare sull'attività dei propri ragazzi in queste madrasse piuttosto che in questi centri islamici, che credo abbiano... È un problema, dice Giorgio, anche di educazione. Debora, io non so se a questo punto andiamo a sentire i mercati. Andiamo a sentire i mercati, poi ci raggiungerà Maria Luisa Pezzali appunto per un aggiornamento, notizie, anche e poi... perché qua a quanto pare stanno prendendo forma le prime conferme a proposito del coinvolgimento di italiani nell'attentato. Poco fa ha parlato all'ANSA Serena Lippi, console generale d'Italia a Nizza, che ha detto: non abbiamo dati ufficiali, serve la massima prudenza, ma c'erano molti italiani sulla promenade di Nizza appunto colpita ieri sera da questo duro attentato, il rischio che siano rimasti coinvolti c'è. Quindi borsa e poi aggiornamenti a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati in diretta con Cuore Denari, ma siamo già pronti a dare la linea ai colleghi della redazione per gli ultimi aggiornamenti sull'attentato di Nizza. Maria Luisa Pezzali, di nuovo ben ritrovata. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Si chiamava Mohamed Lawayei Boulel, il killer di Nizza. Lo scrivono i media francesi. L'attentatore è stato formalmente identificato, mancava solo il nome. Si tratta, come già detto in precedenza, di un 31enne franco-tunisino residente a Nizza, non era inserito in nessuna lista di ricercati per terrorismo. Era solo a bordo del camion lanciato sulla folla lungo la Promenade des Anglais. Lo aveva noleggiato due giorni fa a Saint-Laurent-du-Var, nei pressi di Nizza. Sul veicolo, però, notizia di pochissimi minuti fa, è stato trovato anche un secondo documento d'identità. Per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'attentato, l'unità di crisi della Farnesina ha reso noto che la presenza di italiani tra le vittime o i feriti non può essere esclusa. Non ci sono al momento riscontri in tal senso, c'è però un messaggio di ricerca su Twitter. Tra le persone disperse ci sarebbe una coppia italiana, lo ha reso noto una parente che ha detto di non essere più riuscita a contattarli dopo ieri sera. Il bilancio dell'attentato, lo ricordiamo, è di 84 morti, un bilancio purtroppo ancora provvisorio. Ci sono un centinaio di feriti, 18 dei quali in gravissime condizioni, tra le vittime almeno 10 bambini, 54 i bambini tra i feriti ricoverati negli ospedali della zona. Infine il presidente francese François Hollande ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale a partire da domani, lo ha annunciato il premier Manuel Valls, ricordando che il terrorismo costituisce una minaccia che pesa e peserà ancora a lungo sulla Francia. Questi gli aggiornamenti, vi restituisco la linea. Grazie Maria Luisa, noi ritorniamo con Cuore e Denari sui temi che stavamo affrontando, no? Nicoletta, sulla gestione anche un po' di tutte quelle, tra virgolette, emozioni che fatti di questo genere scatenano, se ne stanno susseguendo un po' tanti da qualche tempo a questa parte, tra questione di carattere internazionale. Noi abbiamo affrontato questa settimana anche la durissima prova dell'incidente ferroviario in Puglia e questa è un po' la situazione, un po' abbiamo raccolto tante testimonianze degli ascoltatori. Ci stanno continuando anche a scrivere persone che stanno meditando di cancellare il loro periodo di permanenza in vacanza, appunto, in Francia. C'è chi era pronto a partire per Ventimiglia, qualcuno ce lo sta raccontando, stanno cancellando i loro viaggi. È anche corretto fare questo, farsi sopraffare, no? Da questo sentimento di paura, Nicoletta, abbiamo interpellato degli ospiti proprio per interpretare queste sensazioni. Da un lato è fisiologico e quindi ho paura e la paura porta con sé l'evitamento, non voglio trovarmi nella situazione che, in base alle informazioni, secondo me potrebbe essere rischiosa, oppure può prevalere quella sorta di rassegnazione, la situazione è questa, siamo tutti dei bersagli sensibili e allora non ci penso, vado avanti. Naturalmente tra queste due posizioni ci sono poi delle sfumature, delle posizioni intermedie, dottoressa Trinci, non c'è sempre solo il bianco e il nero, ci sono poi dei momenti, dei giorni in cui, no, il nostro atteggiamento si sposta. Certo, questo lo condivido pienamente. Pensiamo anche a un altro dato, se vogliamo ritornare ai ragazzi, ai giovani, ai bambini, agli adolescenti, che un tempo vivere le paure addirittura si potevano considerare come un manuale dello sviluppo infantile, dalla paura dell'estraneo alla paura, no? Quindi diciamo che le paure erano quelle che facevano crescere anche i ragazzini. Lei ha detto, secondo me, una cosa giustissima: il rischio ora è di essere sopraffatti dalla paura e quindi di attivare quei meccanismi di difesa rispetto alle paure o di protezione, come diceva il professor Perla prima, no? Che attenuano le risposte e abbassano le difese, con la sopraffazione da parte della paura. Poi le risposte a tutto questo sono ovviamente delle risposte soggettive. Io tengo moltissimo all'idea che nelle famiglie si parli di quanto accade, cioè non si ma ha ragione dottoressa Trinci, però i bambini piccoli come gli si fa raccontare, no, tutto questo? Bisogna, si ha paura di peggiorare la situazione, di non avere le parole giuste, perché è vero vero che se si è trasparenti, no, poi le parole si trovano, ma non è facile. Io lo sto raccogliendo anche da alcuni messaggi che arrivano WhatsApp, questa difficoltà dei genitori che dicono: ma tutte queste immagini, mio figlio ha 7 anni, le vede, è con la nonna, ho detto a mia mamma di non fargliele vedere. Cioè, li schermiamo, gli diamo dei codici di accesso per interpretare questa realtà in cui necessariamente saranno costretti a vivere, perché non sappiamo, no, per quanto tempo ancora continuerà questa situazione di allarme. Dottoressa. Vanno sicuramente secondo me vanno attrezzati. Poi è vero quello che dice anche l'ascoltatore, nel senso che è chiaro che a un bambino di 3 anni non è che gli fai vedere la strage così cruda, no? Questa abitudine anche del mostrare quanto accade forse desensibilizza alla fine rispetto all'atrocità, si è un po' perso il senso dell'indignazione, perché ci si sta abituando. Questo io l'ho provato anche personalmente quando c'è stato il momento dell'11 settembre, io ero in una località marina dove facevano vedere su un grande schermo quanto era accaduto. La prima volta è terribile, la seconda pure, la quarta pure, verso la decima volta che le immagini venivano proiettate a ripetizione, c'è qualcosa, no? Che scatta una sorta di indifferenza, ecco, una sorta di forse sì, anche il male può diventare banale. La banalità del male, la zona, la famosa zona grigia degli indifferenti. Forse bisogna lavorare nei modi e con i mezzi che ogni genitore ha, con la sensibilità, perché ognuno poi conosce il proprio bambino. Credo che questo sia un compito educativo anche delle scuole. Pensi che quando ci sono stati momenti tragici che hanno coinvolto i bambini, in alcune scuole dell'infanzia ci sono state le proposte di mettere la candelina fuori della finestra. Ecco, anche bambini piccoli possono partecipare a questo, cioè sollecita il senso della solidarietà. Stanno accadendo davvero delle cose brutte, delle cose che fanno male, delle cose ingiuste, delle cose indegne. Noi però siamo tanti, io ribadisco questo, siamo tanti, ce la possiamo fare, accendere una candelina, dei piccoli gesti che nella vita di un bambino possono significare l'inizio dell'avere una coscienza civile, no? Dell'essere una parte del mondo. Questo non credo ce lo dobbiamo dimenticare. E questo possiamo darlo ai nostri bambini. Dottoressa Trinci, pensiamo agli adolescenti, partono? Ci sono le vacanze, l'esame, molti avranno fatto la maturità, cioè, no? il viaggio dell'esame, della maturità, l'estate della maturità, certo. E poi ci sono tante altre ragioni. I genitori naturalmente sono divisi, no? Tra l'ansia di lasciarle andare, perché come genitore io ad esempio, e penso che sia anche una cosa legata un po' alle fasi della vita, pensi, hai paura per i tuoi figli e molto meno per certo, te, no? Certo, è vero, e questo è vero, no? A un certo punto, quando uno è genitore, se è un genitore sufficientemente buono, ha proprio il senso della preoccupazione nei confronti dei propri figli. Però anche qui io credo debba prevalere il senso della vita che va. Noi non possiamo imbracare il mondo, non lo possiamo fare. E quindi credo che con uno sforzo anche su se stessi, sulle proprie emozioni, sui propri sentimenti, i ragazzi debbano essere lasciati andare. Vorrei farle sentire, perché rimane con noi il professor Perna per l'ultima parte della trasmissione, la dottoressa Trinci so che deve scappare, ma vorrei che desse una mano a Gianni, che ci chiama da Firenze. Buongiorno Gianni. Sì, salve, buongiorno a tutti. Visto il tema della trasmissione, volevo intervenire, perché io ho un figlio che niente di drammatico, però purtroppo mi tocca tutelarlo un attimino da queste cose bruttissime, perché ha 11 anni e niente, ultimamente ha paura di tutto, ha paura se andiamo a trovare degli amici a Bruxelles in aereo, ha paura di prendere il traghetto, ultimamente anche dell'ascensore. Sono cose che riesco a farli superare, certo. Però è veramente terrorizzato. Io credo che fondamentalmente sì, è giusto spiegargli certe situazioni, ma abbiamo sono due mondi che purtroppo interagiscono, ma talmente diversi dal limbo in cui i bimbi crescono spesso, forse l'errore è proprio quello, ma è difficile farli vedere, che ne so, quando vengono proiettati, ora gente a cui viene tagliata la testa, oppure le immagini che si vedono su Facebook delle foto dopo il Dhaka, dopo il bar della strage di Dhaka. Cioè, secondo me i bimbi forse non sono proprio pronti a recepire certe cose. No. Il mio comunque ha questo problema, non questo è niente problema. Drammatico. No, ma certo, ma d'altra parte la dottoressa Trinci sottolineava un aspetto nuovo, cioè i bambini hanno paura del futuro. Dottoressa Trinci, abbiamo un attimo di viabilità e poi ritorniamo insieme per un consiglio a Gianni, poi la lasciamo andare. Grazie. Cuore e denari. Eccoci di nuovo insieme, dottoressa Trinci. Un bambino, il papà ce lo descrive, ha tanta paura, poi riesce a superarlo, ma sicuramente l'ambiente, il clima influenza, no? Anche l'equilibrio dei bambini, che si trovano ad avere paura delle cose che affrontano. Il viaggio, diceva il papà, a Bruxelles, il traghetto, poi riesce a superarle, ma manifesta questa sua difficoltà nell'affrontarle serenamente. Lei che cosa suggerirebbe al papà? Ma due cose mi faceva venire in mente l'intervento del conterraneo fiorentino, fra l'altro. Dunque, mi faceva venire in mente appunto questa cosa che già sottolineava lei delle paure del futuro, ovviamente perché c'è questa paura emergente, perché i bambini sentono continuamente dire da noi anche non si sa quello che ci riserverà il futuro, no? Quindi credo che questo aumenta un immaginario dove anche il sole è malato. Un tempo si guardava al sole con fiducia, oggi si guarda al sole con preoccupati, paura, certo, con preoccupazione. Quindi questo clima non facilita quelle che sono le paure normali dei ragazzini, perché Giovannin senza paura, non ce lo dimentichiamo, è finito morto, perché a non aver paura poi non si tiene rischia, conto, certo, si rischia altrettanto. Quindi questo credo che sia indubbiamente vero rispetto al bimbo che ci descriveva l'ascoltatore. L'altra cosa che lui diceva rispetto al mostrare le immagini, io non sono favorevole per esempio a che i bambini vedano le decapitazioni, oppure, ma questo neanche i ragazzini di 12 o 13 anni, perché davvero è un inserimento in una cultura dell'immagine che toglie poi la possibilità anche invece di poterne parlare delle cose, no? Perché con la parola si può volare, secondo me, all'ombra del vero. Questa è un'indicazione che dava Kafka. Nulla, cioè, le cose dette in maniera diretta, in maniera cruda, non servono ai ragazzini. Bisogna provare e trovare delle maniere, per esempio raccontando, attraverso delle storie, preparandoli, cioè raccontando. Forse è un rendere alla parola quello che le è stato tolto. Grazie, dottoressa Trinci, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e, ahimè, buona giornata. Professor Perna, andiamo a sentire Giuseppina da Modena e poi a lei il compito di tirare un po', no, le fila di queste nostre riflessioni, che sono state naturalmente suggerite dall'intervento dei nostri ascoltatori e interpretate dalla vostra esperienza. Giuseppina, buongiorno da Modena. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. I miei sentimenti sono stati diversi. Inizialmente sgomento e dolore, chiaramente. Poi però una ragazza di 17 anni, abituata a viaggiare anche da sola, come sono stata abituata io anche. E allora questi sentimenti sono stati superati dal fatto che bisogna comunque avere fiducia nella vita e nel futuro. Certo. Non possiamo chiuderci. No. In casa. No, non possiamo dargliela vinta anche, no? Perché gli atti terroristici vogliono dividerci, invece la nostra risposta è rimanere unite. Questo possiamo fare noi come società civile, poi ci saranno, no? Certo, perché chiuderci significherebbe appunto, fra virgolette, morire, invece dobbiamo vivere, certo, dobbiamo essere consapevoli e, diciamo, e avere anche, essere guardinghi, ecco, in quello che ci può accadere. Però e quindi un messaggio di fiducia non solo ai nostri figli, ma a tutti i ragazzi, il diritto alla vita, e certo, alla conoscenza e a conoscersi, perché forse solo se si conoscono fra di loro e anche conoscono le differenze degli uni con gli altri, possono superare questi momenti così difficili. Cioè, non separiamoci, perché... Mai, uniamoci. Grazie Giuseppina da Modena per il suo intervento. Professor Perna, le voglio leggere un messaggio di un ascoltatore che non si firma, che ha commosso sia me che Deborah. È vero, sì. Ieri sera guardavo le nuvole, tanto erano belle, mi sono commosso, mi ricordavano mia madre, capace di vedere le belle cose di questo mondo. Mai avrei immaginato che in un'altra parte del mondo qualcuno fosse capace di tanta violenza. Abbiamo il dovere di ingentilire tutto ciò che ci circonda con i nostri piccoli gesti quotidiani. Una preghiera per tutti. Lo leggo in risposta anche a un altro ascoltatore che ci scrive un po' ironico, un po' polemico sul fatto, sull'accendere i piccoli gesti quotidiani. Ma che cosa serve accendere le candeline? Forse non risolve la situazione, ma forse una candelina accesa aiuta a prendere consapevolezza e anche forse una risposta, un modo per dare anche, no, voce alle nostre emozioni, vederle. Professor Perna. Guardi, storicamente il mondo è sempre andato avanti su un bilanciamento tra quello che è il bene e il male, che poi è una delle questioni principali, certo, della vita. È vero che apparentemente i piccoli gesti contano poco, ma in realtà hanno un valore culturale straordinario, cioè mostrano che esiste chi crede in una realtà diversa. Questo credo che sia la cosa importante. Da quello che abbiamo sentito, non bisogna avere paura delle emozioni. Le emozioni, la rabbia e la paura, sono emozioni normali in tutti noi. Quindi avere paura, essere arrabbiati, non è essere estremisti, non è essere poco umani, anzi essere molto umani. Però d'altra parte c'è inevitabilmente il dovere di dare un piccolo contributo personale al cambio culturale, perché è soltanto il cambio culturale che non sconfiggerà il male, ma renderà sempre di più l'umanità propensa verso il bene. E quei piccoli gesti, che vogliono dire il valorizzare i sorrisi, valorizzare le candele, che ovviamente di fronte alle tragedie, le conseguenze che capitano, apparentemente sono un nulla, in realtà creano quel terreno di fondo che può nel futuro, nelle generazioni future, creare una cultura diversa. E a me veniva in mente, mentre tutti parlavano, i film Crociate, dove si vedevano queste grandi battaglie fra la cristianità e fra Saladin, no? Ricordate? Certo. Allora, vuol dire che grandi conflitti e grandi diversità culturali ci sono sempre state. Forse dedicarsi alla parte positiva di ognuno di noi non sconfiggerà necessariamente oggi questi terrorismi, ma creare le basi per evitare che il domani sia in qualche maniera colonizzato da questi comportamenti molto patologici. Però ricordatevi, la paura e la rabbia ci sono umane, sono normali, dobbiamo accettarle, ma forse non dobbiamo cavalcarle continuamente. Allora, voglio leggervi un messaggio di un ascoltatore, Davide, da Bologna, che ci scrive: pensare che da oggi, il 14 luglio, sarà associato al 2016, non al 1789, è una cosa di una tristezza infinita, ci scrive Davide. Uh-huh. Anche in questo caso lo sforzo è, queste date non si possono cancellare, ma c'è anche il 14 luglio del 1789. Professor Perna. Sì, è verissimo questo, è verissimo che in fin dei conti le date ci ricordano, però il ricordo fa parte del passato. A me piace molto pensare che noi dobbiamo guardare il presente e il futuro, e il compito educativo verso noi stessi, verso gli altri, verso i nostri figli è quello esattamente di mostrare tutte quelle meraviglie che esistono. Purtroppo il mondo è fatto di malattie ed è fatto di salute, è fatto di albe, certo, trapponti, è fatto anche di guerre e di combattimenti. L'unica cosa certa è lo sviluppo dell'umanità verso un versante di solidarietà e di comprensione, che è un po' quello su cui tutti siamo d'accordo. Sarà una banalità, ma forse è una delle poche strade che ci permette un domani di combattere l'angoscia derivante da tutti questi fatti terribili che stanno accadendo. Grazie al professor Perna, grazie a chi ha ascoltato, a chi è intervenuto, che ci ha raccontato la sua esperienza, ci ha scritto, ci ha aiutato a... No, ad affrontare questo tema molto delicato, molto che delicato, ci tocca, esatto, tutti. Ovviamente poi si prova in ogni modo di evitare di cadere nella retorica. Secondo me il nostro tentativo è andato bene, è andato a buon fine. Sapete, ogni parola può sembrare apparentemente inutile di fronte ad una tragedia di questo tipo che colpisce tante persone, però insomma anche il nostro dovere di informare, nella nostra modalità dobbiamo portarlo avanti. Per cui continueremo peraltro a seguire anche tutti i dettagli di cronaca di questo post tragedia, post attentato appunto di Nizza. Noi adesso ritorniamo a dare la linea al giornale radio, noi invece ritorniamo in diretta con Cuore Denari lunedì puntuali alle 10.30. Per quello che è possibile, buon weekend Nicoletta. Grazie a tutti. Buona giornata a tutti.